Ciao, sono Francesco, lavoro come freelance nel campo del copywriting, del giornalismo e non solo, e ovviamente, insomma, le mie attività in questo periodo sono un po' ridotte. Penso che questa possa essere un'occasione per leggere e ascoltare in senso ampio. Willy Russell, il ragazzo sbagliato. Mia nonna odiava mio nonno. Neppure dopo la sua morte aveva mai mostrato un po' di comprensione per lui. Diceva che quel vecchio bastardo lussurioso se l'era meritata tutta la brutta fine a cui lo avevano condotto le sue perverse inclinazioni. Il nonno era caduto dal tetto mentre cercava di installare un'antenna satellitare con cui guardare i film porno e i quiz osè trasmessi dal continente. Tutti gli avevano sconsigliato di montarla da solo e suggerito di rivolgersi invece a un antennista qualificato. Però prima del martedì successivo nessun antennista era disponibile e dato che la libidinosa e impellente curiosità di mio nonno per i programmi porno del continente non gli consentiva di aspettare tanto, contro il parere di tutti aveva deciso di darsi al fai da te. E con successo, visto che era riuscito a montare la parabola sul comignolo. Ma tale era stata l'eccitazione al pensiero del lascivo erotismo europeo, che presto sarebbe giunto al suo televisore attraverso l'antenna appena installata, che il nonno aveva messo un piede in fallo, cadendo dal tetto e rompendosi l'osso del collo. Ma con la parabola aveva fatto un buon lavoro, e infatti la nonna nel frattempo era rimasta seduta in soggiorno a guardarsi un documentario belga su cibo e sadomasochismo, credendo fosse Channel 4 del Galles. E quando mio nonno è caduto dal tetto urlando, lei lo ha semplicemente ignorato, pensando che l'urlo facesse parte del documentario in cui un tizio si stava flagellando con un carciofo. Quando alla fine mia nonna ha spento il televisore, non senza aver imparato qualche trucchetto con zucchine e peperoncini che Delia Smith non si sarebbe mai sognata, mio nonno ormai era morto stecchito e spiaccicato in cortile. È vissuto nella lussuria, è morto nella lussuria, diceva sempre mia nonna. Sei ancora troppo giovane per capire Raymond, diceva, ma un giorno capirai. Io invece capivo perfettamente, perché all'ultimo anno di scuola materna il nonno si è improvvisamente offerto di accompagnarmi a scuola tutte le mattine. La mamma ha pensato che volesse solo essere gentile, ora che stava diventando vecchio, che volesse farsi amico il nipotino. Invece, l'unico motivo per cui lo faceva è che gli serviva una scusa per farsi amica la signora che vendeva i lecca-lecca sul vialone. Si fermava sempre a parlarle e mi faceva arrivare tardi all'appello. Non faceva che dirle spiritosaggini, per esempio, che ciò di cui lei aveva bisogno era un vero lecca-lecca e che lui aveva proprio quel che faceva per lei. A quei tempi ero troppo piccolo per sapere cosa fosse una metafora, ma sapevo benissimo cos'era un lecca-lecca. Avrei voluto sprofondare. Poi, dopo qualche tempo, le battute su lecca-lecca sono cessate e quando arrivavamo all'incrocio, i due si guardavano negli occhi con sguardi pieni di desiderio. E invece di prendermi la mano per attraversare la strada, mio nonno prendeva la mano della signora di Lecca-Lecca e io dovevo pensare da solo a salvarmi il culo nel traffico. Finché un giorno siamo arrivati all'incrocio e la signora, invece di guardare mio nonno con occhi adoranti, ha cominciato a picchiarlo furiosa sulla testa con uno dei suoi Lecca-Lecca. Pare che qualcuno le avesse segnalato che mio nonno divideva il suo Lecca-Lecca tra lei e una signora bisessuale che lavorava alla mensa della scuola di Santa Bernadette del Perpetuo Soccorso. Da quella volta io e mio nonno abbiamo dovuto fare il giro lungo per andare a attraversare al semaforo. Poi è caduto dal tetto e il parroco ha detto a mia nonna che era una tragedia. Ma la nonna ha replicato: "Tragedia un cazzo! Da quando è caduto da quel tetto, la mia vita è finalmente cominciata e mi dispiace solo che non abbiano inventato la TV via satellite 30 anni fa." Il parroco allora ha sbattuto le palpebre e ha detto che forse era meglio decidere i canti che mia nonna avrebbe voluto al funerale. E lei: "Oh, happy day" e "Glad that I live am I." Il parroco ha tossicchiato e mormorato qualcosa su come il dolore possa avere strani effetti su alcune persone. Poi ha detto a mia nonna che se ne doveva andare, ma prima aveva bisogno di sapere se voleva che mio nonno fosse inumato o cremato. Mia nonna ha risposto che preferiva fosse sepolto sotto una colata di Calceviva. Il parroco l'ha guardata confusa, ha tossicchiato di nuovo e ha detto che era tempo di andare. "Non capiscono, vedi, Raymond", mi ha detto la nonna dopo aver accompagnato il parroco alla porta. "Non capiscono cosa ho dovuto sopportare io per tutti questi anni. Una tragedia? Io lo spiego io a quell'idiota di parroco cos'è la tragedia. Tu lo sai, Raymond, qual è stata la vera tragedia della mia vita?" "Sì, nonna", ho detto io. "La tua tragedia è stata di essere una donna non mediocre che però ha dovuto vivere una vita mediocre." "Proprio così, Raymond", ha detto lei. "Proprio così. Ho vissuto una vita mediocre. E tutto a causa sua. L'ho conosciuto e l'ho sposato. Lui e la sua voglia di divertimento. Andiamo a Blackpool, Vera. Andiamo a Blackpool a divertirci. Adorava divertirsi, ha sempre adorato divertirsi, ma io detestavo questi accidenti di divertimenti. Detestavo lo zucchero filato, i cabarettisti come Arthur Husky con il suo cappello, e l'Hula Hoop, i palloncini, e le torte in faccia, e quel coglione di Charlie Chaplin, e i cori in torpedone, e tutti quei maledetti gelati da strapazzo delle bancarelle. Divertimento? Non mi è mai interessato il divertimento. Io volevo la gioia! Ma lui non lo capiva. E sai, Raymond, vuoi sapere che cosa mi ha detto quando ho scoperto per la prima volta che se ne andava in giro a fornicare a fare il cascamorto? Quando ho scoperto cosa stava facendo con quella tizia di Cider che leggeva i contatori, sai cosa mi ha detto? Mi ha detto: con lei mi diverto, Vera. A lei piace divertirsi. E tu non sei più divertente, nemmeno un po'. Mia nonna ha continuato a guardare in lontananza per qualche secondo, poi ha spento la sigaretta e ha cominciato a sparecchiare la tavola. Sai cosa diceva Thomas Hardy, vero, Raymond? Mi ha domandato. Sai cosa diceva di Testa e Duberville, vero? Io lo sapevo, ma ho detto di no perché sapevo che a mia nonna piaceva tanto recitare quel brano. Era una vittima della più comune delle tragedie, ha declamato la nonna. Aveva sposato l'uomo sbagliato. Mia nonna se ne stava lì in piedi con i piatti in mano e annuiva con aria solenne. E quando scrisse quelle parole, Raymond, mi ha detto, Thomas Hardy poteva benissimo riferirsi a me. Ho raccolto tazze e piattini e seguito la nonna in cucina. Lo sai che avrei dovuto sposare, vero Raymond? Ha detto riempiendo d'acqua la bacinella per i piatti. Sì, nonna, ho detto io, avresti dovuto sposare Jean-Paul Sartre. Proprio così, ha detto la nonna, proprio così, Jean-Paul Sartre, ecco che avrei dovuto sposare. Non sono mai riuscita a leggere i suoi libri, ma si capisce dalle fotografie che Jean-Paul Sartre non era affatto un cretino. Mia nonna ha cominciato a lavare i piatti, e io ho preso lo strofinaccio e mi sono messa ad asciugarli. E io l'ho sempre detto, Raymond, l'ho sempre detto, figliolo, che tu assomigli un po' a Jean-Paul Sartre. Non c'è un grammo di cretinaggine in voi, in nessuno dei due. È per questo che mi capisci, figliolo. È per questo che posso parlare con te. La nonna aveva ragione. La capivo e adoravo parlare con lei, anche se in realtà parlava solo lei. Ma ormai la nonna non parla più. Sono stati quel bastardo dello zio Jason e quella patetica della zia Paula. Volevano un'antenna satellitare e volevano anche mettere le mani sulla casa della nonna. E così l'hanno messa al parcheggio per cittadini stagionati di Stalebridge. È stata tutta colpa loro. E nulla di questo sarebbe mai successo se avessi potuto continuare a parlare con mia nonna. Non mi sarei mai messo nei guai e non avrei dato tanti pensieri alla mamma. Mia nonna mi ha sempre capito e non ha mai permesso a nessuno di parlare male di me, neppure dopo quello che era accaduto al canale. Quindi, se mia nonna fosse stata ancora tra noi, non sarebbe successo quel che è successo. Se mia nonna fosse ancora tra noi, non dovrei andare nella grigia e grottesca Grimsby.